eterna sospiro. Sospiro anch'io, e mia quell'ira, quel pianto è mio, e non ho bene se la non dipende quel che lei piace.